Vendo tutto di Matteo Caccia. In diretta dal Salone del Libro di Torino, l'unica radio che vi fa sedere sui puff, cioè Radio 24, Padiglione 2 del Lingotto di Torino. Questo è Vendo tutto. Lo sapete già, la mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Lo so, capita, succede a tutti e stavolta è toccata a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo uno scatolone pieno di libri. Torino, facciamo sentire in quanti siamo! Buongiorno a tutti, è arrivato il grande giorno. È tipo 1 mese e mezzo che ve la meno. Sto urlando troppo? Per loro no, per quelli a casa magari sì. È 1 mese e mezzo che ve la meno, questo è l'oggetto del desiderio di oggi. Cioè, vedo, lo vedo fervente nei vostri occhi, il desiderio. È uno scatolone chiuso, come vi dicevo, l'ho chiuso da gennaio. Qualcuno non ci crede. Qualcuno dice che l'ho aperto recentemente. Invece no, è chiuso da gennaio quando ho cominciato tutta questa menata del vendere tutto. Ce ne sono altri, chiaramente, non avevo solo questi libri in casa. Cioè, ne ho altri, però gli altri faranno un'altra fine, che non vi dico qual è. Questo scatolone, come al solito, è in vendita, base d'asta, 99 centesimi. Ok? Ci siamo? Allora, io direi che visto che Elisabetta, giusto? Elisabetta da? Rivoli. Abbiamo due uomini, cioè due uomini, un uomo e una donna dotati di microfono. Elisabetta da Rivoli mi ha fatto dono di questo splendido... Innanzitutto, i puff sono tutti occupati, quelli che avevano prenotato ieri ce l'hanno, perfetto. Quindi possiamo andare avanti, è arrivato il momento di aprire questo dannato scatolone pieno di libri. Ci siamo? Ripeto, io non so cosa c'è dentro, so solo che c'è scritto libri di Matteo, uso il... Ma taglia Elisabetta sto coltello, sei sicura? Forse lo sta usando dalla parte sbagliata, forse, dalla lama sbagliata. Ci sono, vedo anche presenti tutti i volti di Radio 24, ho visto Giuseppe Cruciani qui, Alessandra Tedesco. Un bel applauso ai volti di Radio 24. Oh. Cioè, tutto vi devo dire proprio, ragazzi, tutto. Poi dico, no, perché poi dicono che gli ascoltatori di Vendo Tutto sono quelli un po'... Vabbè, niente. Ci siamo quasi, eh? Sto aprendo per quelli a casa questo splendido pacco pieno di libri. È una sorpresa pure per me. Cioè, nel senso che so che libri ho, però non mi ricordo più quali sono. Ed eccoci qua. Ed è subito una condanna. Il primo libro è I giorni dell'Inter... Un libro, in copertina c'è Karl-Heinz Rummenigge, che avevo detto tutto, era l'epoca in cui l'Inter funzionava, erano anni fa, non mi ricordo assolutamente come ci sia capitato, credo sia una roba tipo 83-84, casa editrice Grafot, Torino, per cui siamo in casa, e via, e uno ce l'abbiamo, poi abbiamo, è che quando uno ha delle ossessioni in testa, no? Cioè quando uno tipo decide che gli piace l'illusionismo, non so, forse ve l'ho già raccontata questa cosa, che ho una passione per le magie, per i giochi di prestigio e per l'illusionismo, e vedo, potrei mi è stata data un'idea, potrei quasi farvi un gioco di prestigio volante, proprio una roba radiofonica al massimo, ve la faccio dopo. Pensare come un mago. Matteo Rampin, risolvere i problemi col pensiero illusionistico. Leggo la seconda ricopertina. Le magie di un illusionista ci persuadono perché sono ottenute manipolando i nostri schemi mentali e percettivi. I maghi del palcoscenico riescono a costruire scenari impossibili allontanando per qualche istante i vincoli della nostra mente. Più interessante chi è Matteo Rampin? Non è manco un illusionista, cioè non è neanche un mago. Psicoterapeuta, didatta e formatore. Si è perfezionato in psicoterapia breve e in ipnosi presso il centro di terapia strategica di Arezzo. Niente, tra l'altro, perdonatemi, la copertina riporta Matteo Rampin, autore di Al gusto di cioccolato. Era per rafforzare le vendite del libro. Oh, abbiamo un classico, eh? Qua cominciamo con i classici. Prima di andare avanti, scusate, voglio far sapere a tutti quelli che sono a casa che mi hanno chiesto se è presente Cesarina, la pittrice torinese. Cesarina è qui con noi e quindi un bel applauso. Facciamo dire due parole a Cesarina. Cesarina si alza, addirittura saluta il pubblico. È già un personaggio. Cesarina mi ha portato... Cosa devo dire? Niente, deve semplicemente fare un saluto e dire sono Cesarina, sono venuta. Sono Cesarina e sono venuta per Matteo. Benissimo, grazie. Mi ha dato una busta, Cesarina, devo dirlo a tutti. Che mia nonna mi dà le buste così di solito. Ci sono dentro dei soldi, immagino di no. Ha scritto Matteo Scaccia, però perché Scaccia è un nome famoso, giustamente. Come? Il microfono a Cesarina? Se no urla, non sentiamo. La puoi aprire e puoi leggere cosa tu hai scritto dentro. La posso fare? Sì, sì. In diretta? Sì, sì. Allora apro la busta di Cesarina scritta appunto Matteo scaccia, c'è un... cos'è, un invito? Dentro, apri. Dentro, dentro, apri. Lasciami camminare nella bellezza. Sotto, sotto. A mano. Ancora scritto a mano. Il buio inverno è passato, allietato anche dalle tue belle parole. Grazie, Cesarina. Cesarina, sono quasi commosso, davvero. Ricordiamo che è con lui anche il prode marito Giuseppe, giusto? Vigna Giuseppe. Perfetto, benissimo. Andiamo avanti, mi spiace perché stiamo parlando di classici. Virginia Woolf, la signora Dalloway. Secondo me comincia a salire di valore il tutto, ragazzi. Abbiamo... Ecco, sono arrivato a pagina 64 a leggerlo, se vi interessa. C'è anche un segnalibro, I Dammusi del Faro, Lampedusa. Una vacanza che preferisco non ricordare, soprattutto perché appunto leggevo Virginia Woolf. Andiamo avanti. Questo non ho assolutamente idea da dove arrivi. Tu non mi conosci, si chiama il libro. David Klass, Salani Editore. Ed è peraltro vero che perché non so assolutamente come ci sia finito. E ora Cesarina, tu prima l'hai chiamato. L'hai chiamato prima della diretta. Un grande classico della letteratura mondiale, il dottor Zivago, no? Allora, il dottor Zivago, quanti hanno letto il dottor Zivago qui dentro? Avanti, alzate la mano. Una, due, tre, quattro, su, quanti saremo qua? 80? Saremo un centinaio di persone? Quindi direi una percentuale esigua. Sapete qual è la differenza tra i classici e i libri normali? Dite di no anche se... Ok. La differenza è che un libro normale, se non l'hai letto, non sai di cosa parla. Il classico, invece, sì. Per cui, di che cosa parla Dottor Zivago? Uno, al volo, in una frase. Niente. Proprio niente. C'è... Alessandra Tedesco è troppo facile. Ve lo dico io. Il Dottor Zivago è la storia di un medico che fa la Prima Guerra Mondiale e poi va a... e poi scappa sulle montagne e si innamora di una donna. Questa più o meno è la storia, giusto? Grosso modo è questa qua. Non l'ho letto io, ovviamente. Però c'è una scena del Dottor Zivago che tutti si ricordano, giusto? Qual è la scena che tutti si ricordano del Dottor Zivago? Avanti, avanti. È la scena del tram, giusto? Perfetto, è la scena del tram. Quindi, facciamo così, facciamo questo gioco. Anche chi è a casa, perché non è che possiamo escludere chi è a casa. 800240024, voi non chiamate che la possiamo fare da qua. Se avete voglia di raccontarmi qual è un classico che non avete letto, se l'avete letto è troppo facile, un classico che non avete letto ma di cui vi ricordate la storia, a casa chiamate 800240024, qui invece me lo dite. Ad esempio, chi è che non ha letto Moby Dick? Non ha letto, su ste mani. Oh, dai, adesso volete farmi credere che avete letto Moby Dick. Perfetto, allora andiamo subito con Matteo. Matteo, presentati, quanti anni hai? Io sono Matteo, 11 anni, non ho letto nessun classico. Benissimo. Matteo, però di che cosa parla Moby Dick? Parla di un capitano di una nave che insegue questa balena bianca. Ma che bravo! Bravo! C'hai anche un dettaglio, secondo me hai anche un dettaglio sul capitano della nave, Matteo. No. Gli manca la gamba. Gli manca la gamba, bravissimo. Rimaniamo lì, rimaniamo in zona. Alessandro, sono ascoltatori giovani oggi. Sono Alessandro, ho 12 anni. Niente, parte pronti via la presentazione, giustamente. Alessandro, raccontami un classico più facile. Beh, oddio, più facile Moby Dick, mi sembra difficile. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ok, è un classico questo. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Di cosa parla Dottor Jekyll e Mr. Hyde? In due parole. Qualcuno che lo sa lì di fianco. Susanna lo sa. Qua, Laura, dietro di te. Susanna lo sa. Una persona con due personalità diverse. Perfetto, in una frase un classico. 800240024. Oppure se c'è qualcuno che ha letto o non ha letto un classico qui presente, facciamo un altro classico. Ma c'è qualcuno che stamattina anche? Abbiamo preso delle voci stamattina, giusto? Oh, non mi sfugge niente, Faggine, non mi sfugge niente. Stamattina abbiamo mandato in giro Laura Faggine a chiedere se della gente aveva letto dei classici, se li conosceva o non li conosceva, e ci hanno risposto così. Hai letto Il giovane Holden? Sono già in difficoltà. Ricordo soltanto la domanda dove vanno a finire le oche o le papere d'inverno quando si ghiaccia il lago. Hai letto Delitto e castigo? Sì. Beh, si basa sull'omicidio di Raskolnikov, se non ricordo male, che è il protagonista. Questo uomo qua che commette questo omicidio, poi molto pentito, vive tutta la vita con questo rimorso, che ha ammazzato questa vecchietta. 100 anni di solitudine? È la storia di una famiglia, questa famiglia in Sud America, queste storie sudamericane. Meno male l'ho già sentito. uscito il 100 anni di solitudine. Comunque tratta un tema abbastanza della solitudine. Non ho avuto modo di approfondirlo, però. Anna Karenina? Sì, è la storia di una donna nella Russia nell'Ottocento. Credo ci sia di mezzo la rivoluzione russa, però non so, non mi ricordo. E invece Cime tempestose? Sì, è la storia di questa donna, questa avventura di questa donna. Mi è piaciuto molto perché è passionale, è drammatico. Mi è piaciuto. Un grande classico in una frase. Un applauso a quelli che non sanno, che non leggono i libri, però sanno di cosa parlano, ma non è merito loro, è merito dei classici. Io vorrei però soffermarmi ancora 2 secondi su questo libro, che tra l'altro secondo me fa alzare notevolmente, siete d'accordo? Quanto varrà secondo voi già adesso sta scatolone, considerando che c'è dentro molta altra roba? Sti 20 euro li varrà? Signora, di più, 30 euro, 40, poi col dottor Zivago sale. C'è questa scena del dottor Zivago che tutti conoscono, ma nessuno ha mai probabilmente letta. Ve ne leggo 2 righe. È la scena del tram. Secondo me ci abbiamo anche la base di cui parlava Cesarina. La troviamo, Pietro, al volo. Fortuna che abbiamo dei tecnici che non sono dei tecnici, sono dei supereroi. Pietro alla corte è uno di questi. È il ragazzo con i capelli rossi con la camicia a scacchi, perché l'altro con la camicia a scacchi è Tiziano Bonini. È difficile trovare 2 persone vicine con la camicia a scacchi. Noi ce li abbiamo. Radio 24, la passione. Si sente. Vai con sta base. L'abbiamo trovata sta base? Ce l'abbiamo. Cesarina. Un attimo di silenzio, anche agli altri in giro, per piacere. Andiamo? È la scena finale, ok? Il protagonista è sul tram, è a Mosca. Una mattina, verso la fine d'agosto, all'angolo del vicolo Gazetny, Yuri Andreevich prese un tram che risaliva la via Nikitskaya. Si recava per la prima volta al lavoro all'ospedale Botkin. Era tra le sue primissime visite di servizio. Non aveva avuto fortuna, era capitato in una vettura in cattivo stato, a cui ogni momento succedevano guai. Ora la fermava, sbarrandogli la strada a un carro, incastrandosi con le ruote nei binari. Ora sotto il pavimento, sul tetto, si guastavano gli isolatori, si verificava un cortocircuito e qualcosa bruciava, sfrigolando. Yuri Andreevich stava su un sedile di sinistra, a un posto completamente schiacciato contro il finestrino. Aveva sempre sotto gli occhi il marciapiede, quello di sinistra, dove si trovava il conservatorio. Anche senza volere, con la distratta attenzione di chi pensa ad altro, guardava i passanti che camminavano nelle 2 direzioni e nessuno gli sfuggiva. Una vecchia signora, ci siamo, ci siamo. Una vecchia signora dai capelli bianchi con un cappello di paglia chiaro, su quale spiccavano margherite e fiordalisi di tela, un abito lilla, avanzava nella stessa direzione del tram, ansando, facendosi vento con un pacchetto sottile che teneva in mano. Stretta nel corsetto, era tormentata dal caldo e con un fazzoletto di pizzo si asciugava fronte e labbra. A un malessere improvviso il dottore si sentì mancare le forze. Vincendo la debolezza si alzò dal sedile e, dando forti strattoni in alto e in basso alle cinghie del finestrino, cercò di aprirlo, ma non cedeva. Con uno sforzo sovrumano, vacillando e facendosi largo a fatica, Yuri Andreevich raggiunse la piattaforma posteriore. Gli parve che l'aria fresca lo rianimasse, che tutto non fosse ancora perduto, che stesse quasi meglio. Prese allora ad aprirsi un varco tra la folla che stava sulla piattaforma. Riuscì a sottrarsi alla ressa, scese dal tram, fece un passo, un secondo, un terzo e si abbatté sul selciato e non si rialzò più. Si levò un vocio intorno, alcune persone scesero dalla piattaforma, circondarono l'uomo steso a terra, si fece vento anche alla signora Viola, quella con il velo. Sostò, guardò il morto, ascoltò i discorsi e proseguì. Lei era la cittadina svizzera Mademoiselle Fleury, ormai vecchissima. Da 12 anni aveva chiesto l'autorizzazione a lasciare la Russia per tornare in patria e solo da poco le sue richieste erano state accolte. Era giunta a Mosca per il visto e quel giorno si recava a ritirarlo al proprio consolato. Proseguì, superando per la 10ª volta il tram, senza lontanamente immaginare che aveva oltrepassato Zivago e gli era sopravvissuta. Radio 24, la passione si sente, scusatemi se lo ripeto una volta ogni tanto. Questo fa parte del pacchetto, dello scatolone di oggi, però sentiamo al volo, hai detto Alberto da Como? Abbiamo anche telefonate, qui non ci ferma nessuno, gente qua, gente a casa. Pronto Alberto? Ehi, pronto? Ciao, come stai? Ciao, bene, bene. Facciamo un bel saluto ad Alberto. Oh. Alberto, fai il consulente? Perché? Tu rispondi se fai il consulente oppure no? Non faccio il consulente. No, perfetto. Non è un clinico. Senti, raccontami qual è il grande classico che non hai letto, però che conosci in una frase. Allora, L'idiota di Dostoevskij, che mi è stato raccontato mentre facevo la tesi da un mio compagno che insieme a me invece lo stava leggendo. Dovrebbe essere la storia di un principe russo aristocratico che dura circa 600 pagine, al quale non succede circa assolutamente nulla se non dimostrare per 600 pagine di non essere in grado di combinare assolutamente niente. Grazie mille di essere un idiota a questo punto. Ne abbiamo un'altra anche. Allora andiamo, da Torino qualcuno mi sembra di aver capito. Quando mi parli Antonio da sì, Torino, ci pronto? Sono, ci grande sono pronto, Antonio. Mi senti? Che cosa fai lì? Vieni qui. Ma infatti sono però domani ci sono i puff tutti occupati, ma domani io non ci sono più. Ma sicuramente, ma sarò presente domani e dopodomani. Raccontami, raccontami il classico che non hai letto ma che conosci. Dunque, i classici ce ne sono tanti, però vorrei dire una cosa sul dottor Givago, nel senso che vai. Dici che la scena più importante è quella del tram. Adesso, no, quella che sanno tutti. Sì, non no, la no, ma io dico, almeno per quanto riguarda me, almeno i conoscenti che come me non hanno letto il libro ma hanno visto il film, credo che la scena più importante, secondo me, non sia quella lì del tram, ma diciamo la scena un po' precedente, quella dell'incontro, come dire, fisico tra i due protagonisti. E ancora ricordo, anche se il film l'ho visto tanti anni fa, questa scena bellissima, questa casa, questa... Insomma, avevi voglia di raccontarla, ho capito. Questa roba del dottor Zivago ti ha aperto una roba che vi voglia di raccontarla a tutti quanti. Ma noi ti ringraziamo, guarda, dobbiamo andare avanti, ma vieni qui appena puoi che fai parte dei nostri. Grazie mille. Ciao, alla prossima. Ci vedremo domani. Ciao, arrivederci. Domani, so. Andiamo avanti, ragazzi, perché qua il tempo stringe e io ho due libri, li prendo insieme perché mi ricordano un pochettino i bei tempi dell'università, se così si può dire. L'efficacia della pubblicità, pubblicità, comunicazione e immagine. Io ho fatto un'università, probabilmente molti di voi la conoscono, secondo me la conoscono anche qualche presente. Sono quelle facoltà in cui fondamentalmente ti insegnano a inventarti degli slogan per chiamare le casalinghe al supermercato. Sono quelle tipo che hanno tutti i nomi che cominciano per scienze di... E poi ci infilano sempre comunicazione in mezzo, non so se avete presente. La prima roba che mi hanno raccontato quando sono entrato in quell'università è stata che, attenzione, perché la pubblicità non vuole vendere un prodotto. Scemo io che pensavo che fosse così. Attenzione, la pubblicità vuole creare propensione al consumo. La signora la conosce, è una pubblicitaria. Insegna pubblicità però. Faccio la preside di liceo. La preside di liceo, però quindi lo sa. Mancano 4 minuti, scusate, ma allora andiamo avanti. Abbiamo ristoranti di Romagna. Boh, non so. Poi abbiamo una guida della Svezia. Ho avuto una fidanzata svedese e cercavo di imparare qualcosa sulla Svezia. Luoghi comuni sulla Svezia, c'è l'IKEA. È buio d'inverno ed è chiaro d'estate. E poi hanno il più alto tasso di suicidi, diciamo, ok, e con gli occhi comuni siamo a posto. Poi andiamo avanti, abbiamo quanti non hanno il primo volume di una raccolta di... il primo, perché il primo te lo danno gratis. Poi gli altri, storia universale, l'antico Egitto. Ok, possiamo addirittura continuare, no, ma noi sforiamo oggi, no? Possiamo arrivare fino alle 5 oggi. Benissimo, già sforiamo a 32, attenzione, andiamo avanti, abbiamo quella... l'automobile e la circolazione. Chi è che non ha ancora la patente? Matteo. Però vedo lì gente che fa la furba, come dire, è andata. Vediamo un attimo, stiamo un secondo qua, fammi fare... Guarda, prendo le orecchie. Limiti di velocità. Tu, che hai fatto così con la mano. Tu con la borsa rossa. 50, 90, 130. Allora, 50 nei centri 50, abitati, esatto. Fuori dai centri abitati 90. 90, poi 110 super strade, strade extraurbane, scusa. Guarda, stai lì perché mi hai fregato, adesso te ne faccio un'altra. Dov'è? Colori di fondo dei segnali di indicazione secondo la normativa europea. Verde, perché cos'è? Verde, autostrada. Ok, blu? Blu, super strade. Ok, bianco? Bianco... ai turisti, che è vero? No, no, indicazioni. Indicazioni, arrivare a destinazioni urbane. Male. Indicare alberghi o cose del genere. Giallo? Giallo? Giallo, lavori. Niente. Lavori in corso. Ma va, no. Indicazioni di località o punti di interesse storico. Marrone? Marrone. Turistico. Turistico. Nero opaco? Non esiste. Vabbè, cioè, come non esiste? Segnali di avvio a fabbriche e zone industriali. Un applauso anche a lui che ci ha provato. La storia d'Italia a fumetti. Questa roba buona, ragazzi, eh? Si parla di Enzo Biagi, volume numero 2. Si va da Colombo alla Rivoluzione Francese. Non vi chiedo niente né su Colombo né sulla Rivoluzione Francese. Andiamo avanti, abbiamo Dostoevskij, Ricordi dal sottosuolo. Avete presente? Io sono un uomo malato. Non l'ho letto neanche questo, ovviamente, però faccio finta di saperlo. Il libro delle classifiche. Ho questo. Sono tormentato dalle classifiche, mi piace sapere. Vedi, Il mondo in cifre. Qua ci sono tutti tutti i numeri che volete sapere sul mondo. Tipo, andiamo sull'Italia, va, che è la cosa più divertente, come al solito. Standard di vita. Qual è il paese con il più alto PIL pro capita al mondo? Vai, lo sa, attenzione, lo sa Alessandro. Del mondo? Sì. Non è l'Irlanda. Lussemburgo, bravo Alessandro. Alzato subito la mano, è scuola, ufficialmente a scuola. Finiamo, ragazzi. Questo è un libro... 50 secondi e finiamo, 50 secondi, giuro, 50 secondi e finiamo. Questo è un libro meraviglioso, si chiama Invisible Man. È la storia, è stato scritto negli anni 50 ed è la storia di un ragazzo di colore che va a vivere a New York e si accorge che lui vive ma nessuno si accorge di lui. È in lingua originale, tra l'altro, comprato, secondo me siamo già attorno ai 150 euro. Questo no, questo non l'ho neanche aperto, evidentemente era un regalo cui tenevo, probabilmente ci tenevo la persona che me l'ha regalata. E poi abbiamo ancora Cronache dal Giro d'Italia di Vasco Pratolini, ok? E poi questo è il primo libro che ho letto, o il primo libro di cui mi ricordo, Il Signore delle Mosche, un gruppo di ragazzi che vive su un'isola e, dimmi? Con l'aeroplano e restano da soli senza adulti. Quello è Lost, no, però, è però più o meno è così. Guarda, non c'è scritto niente, l'unica cosa che mi fa tenerezza leggere, e poi andiamo con la sigla, è che mi ero scritto il compito, sulla prima pagina ho scritto leggere. Abbiamo finito anche oggi, questo era lo scatolone, vi ripeto, è in vendita, purtroppo non posso vendervi niente qui, è tutto su eBay, andate come al solito sul sito. Grazie a tutti, a Tiziano Bonini, a Pietro Lacorte, a Laura Faggin, anche a Michelino che ha distribuito il microfono. Noi ci sentiamo lunedì, stiamo proprio andando, è finita, stiamo già sforando. Niente, allora ci sentiamo lunedì. Lo scatolone è come al solito su eBay, voi godetevi la fiera del libro, che i libri, come al solito, sono sempre libri.